Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Vedo davanti a me chi mi risolleva da questa giornata uggiosa. Il treno sta fendendo la nebbia, fuori non c'è nulla, dentro pure non c'è nulla, solo persone grigie che guardano nel vuoto e che non hanno nulla da raccontare. E finalmente però vedo lui, l'ex legionario, il ragazzo che era scappato da casa senza dir niente alla mamma, era andato nella legione straniera e ancora molto a raccontarmi della sua storia, perché ero rimasto nell'ultima chiacchierata che avevamo fatto quando lui, scappato di casa da un club vacanze, si trova improvvisamente a fare l'addestramento per essere un legionario pronto a tutto. Io prendo, allora decido, vado in questo centro di reclutamento che è a Nizza, in Rodidia Blu, faccio le mie visite, tutto quanto, vengo contrattualizzato, mi mandano alla Troisième Aubagne. Ti tolgono l'identità innanzitutto? Assolutamente, ma quello è canonico. E tu ti scegli un nome che ti ispirava? Sì, che pensavo tedesco, invece mi hai ricordato che è austriaco. Certo, è che ci puoi fare. Austro-americano, anzi. Diciamo. Va bene. Ok, da lì vengo mandato al corpo, cioè al centro di addestramento, ad Ajaccio. Faccio tutto il corso, perché io lo faccio, lo finisco, anche se è durissimo, tutto quanto, però ero piuttosto determinato, non mi trovavo malissimo. Non mi hai detto chi hai conosciuto però durante questo corso, che tipologia di esseri umani c'erano, perché tu era più uno sfizio il tuo, un gioco, non è che venivi fuori da una situazione devastante per cui dovevi cambiare identità, era un ragazzo annoiato, c'era questa idea, gli piaceva l'idea eroica, hai fatto il militare nei Parà in Italia, mi sembra, quindi eri già abituato diciamo a una vita militare abbastanza selettiva, ma gli altri che tipi erano? Allora, io lì ho trovato un po' di tutto, a dirti la verità, a Lovagne non c'erano proprio i disperati, gli assassini, cioè quello che è lo stereotipo. Che ci immaginiamo noi, gente deve ripulirsi la vita. Ecco, c'era gente che magari non aveva niente in patria, c'era gente che lo faceva per spirito d'avventura, c'era gente che fuggiva, ma non fuggiva da qualcosa da reati o da chissà che, fuggiva proprio dalla vita noiosa, dalla vita. Però fammi capire una cosa, tu mi avevi detto che non bisogna nemmeno avere una frattura, tutti i denti sani, un fisico perfetto. Non è che sono caratteristiche, tu hai fatto il Parà, quindi eri già passato una prima selezione, ma la persona normalmente, anche se c'è una vita sentimentale disastrata, professionale disastrata, non è che abbia questa forma fisica, questa attitudine all'addestramento, al combattimento. Da cosa venivano, per capire? Lì viene, no, ma appunto per quello. Allora, molti, ti dico, alle visite, per esempio, io mi ricordo benissimo, nelle visite, alla visita, quando l'ho fatta, eravamo 57. Siamo stati presi in 8. Perché non erano tutti dei fisici da supereroe, perché sennò. No, assolutamente. Ma il fisico non è che deve essere da supereroe, deve essere integro. Poi te lo fanno venire loro. Ah, cioè non devi essere particolarmente prestante, basta che non c'hai problemi fisici. Sì, basta che tu non abbia dei problemi fisici, vabbè, devi avere un'altezza superiore al 1,68 m, era all'epoca, magari adesso si è alzata. Non devi avere carie, non devi avere naturalmente problemi al cuore e neanche alla vista, ma ai denti soprattutto, perché essendo un corpo aria mare terra, quando tu ti lanci col paracadute in un lancio tattico ti mangi una capsula, se hai una carie ti esplode, cioè, quindi sì, sì. È una cosa da evitare, quindi loro selezionano per quello. Poi non è importante che tu sia magro, vabbè, certo, un sovrappeso, se va lì uno da 150 kg non lo prendo, però se sei un po' macilento poi ti rinforzano loro, diciamo. Sì, quello sì, assolutamente, anche un po' denutrito. C'erano anche, naturalmente, mi ricordo di uno slavo che a casa sua faceva veramente la fame, è arrivato pelle e ossa, sì, emaciato, diciamo, ma l'hanno preso perché dai controlli non risultava assolutamente nessun difetto fisico. Quindi fa parte del training una sorta di bodybuilding intenso, ti fanno diventare un fisico diverso da quello che hai, per capire. Cioè, uno potrebbe dire vado lì invece che andare in palestra, vado a fare l'addestramento alla legione, mi faccio gli addominali. Praticamente sì, è che poi dopo averti messo a posto ti usano, naturalmente ti trasformano e poi ti usano a loro uso e consumo. Ma è naturale che tu devi sviluppare un fisico adatto alle prestazioni richieste a un legionario. E loro sanno come fare, cioè non è che. Ma ci sono tutte quelle prove che si vedono al di là dei limiti umani, che ti fanno fare, che ne so, in piedi sotto la pioggia battente, dentro la pozza, sotto terra, camminare con la mitragliatrice che spara, non lo so, tutte quelle cose si vedono nei film. Mi riporti un po' a quella che è la realtà di un addestramento militare, di un corpo che si muove in maniera abbastanza attiva, diciamo. Allora, l'addestramento base sì, richiede delle chiamiamole prove d'ardimento, per usare. E qual è una? La più difficile, per esempio? I termini vetusti. Allora, quello che io ho trovato più difficoltoso era la roccia. Praticamente dovevi scalare una roccia molto molto ripida con corda e senza sostegni, da zaino affardellato in un certo tempo. Questo veniva fatto naturalmente con diverse condizioni meteo, quindi poteva succedere che quando facevi la montagnola con gli idranti da sotto ti annaffiavano, te la rendevano più difficile, logicamente, certo, ti annaffiavano pesantemente. E detta così sembra una cosa meno dura che magari una marcia o un passaggio a reticolato o delle flessioni nell'acqua, ma ti assicuro che quando ci sei, quando le mani ti scivolano sulla corda, sanguinano. Oddio. E tu ti devi comunque, e tu non hai protezioni, non hai sostegno, cioè lì non è il circo, tu o lo fai o caschi. Perdono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Ci sei tu, la tua sfida. Dove arrivi te lo sei sudato. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto ogni domenica dopo le 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Il treno va. Viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi quando tu ti trovi arrampicato con i getti che ti arrivano addosso, se cadi ti fai male, ecco, diciamo così. No, sì, se cadi da 10 metri ti fai più che male. Quindi non c'è la rete di protezione. No, e non avevi funi di vincolo, non avevi niente. Ma sono cade si schianta, quindi si schianta assolutamente. E quel caso che succede? Lo rimandano a casa e fine? No, allora io non ho visto incidenti mortali. No, ma mortali, sì. Ma gravi, ossa rotte, cose così. Sì, allora, ossa rotte, se tu ti fai male gravemente durante l'addestramento sotto contratto della legione, comunque loro ti tengono, ti portano a termine In quel caso l'osso rotto non conta, puoi tenertelo. Vale lo stesso. No, conta nella misura in cui ti curano. Se sei abile poi al servizio continui, se divieni inabile al servizio attivo, quindi alle missioni, quindi zoppichi, non ce la fai a correre, ecco, queste cose, ecco, allora però in quel caso la legione ti tiene fino a fine contratto dandoti un posto da scritturare. Ah, beh, in ufficio, fureria, sì. Queste cose qua. Sì, queste cose. Vabbè, comunque sono responsabili, ecco, se ti rompono perlomeno ti pagano, ecco, questo è fatto. No, ma guarda, allora sotto questo punto di vista la legione straniera tutela i propri uomini al massimo. Beh, ci investe anche molto, perché l'addestramento penso che sia costoso, un addestramento così specifico. All'addestramento, l'armamento, la vestizione, comunque certo è costosa, ma la paghiamo, la pagavamo, quindi no, non in soldi ma in fatica. Senti, invece tutte quelle le tecniche combattimento, corpo a corpo, assalto all'arma bianca, sgozzamento di sentinella, quelle cose esistono davvero o anche quelle fanno parte dei film? No, no, no, quelle cose esistono ed è l'addestramento tattico. È l'addestramento tattico, però allora non, a tutti allora, i legionari non sono tutti uguali, cioè ci sono anche nella legione ci sono dei vari, cioè il corpo speciale strani. Della legione, quelli più bravi e più arditi ci saranno, no? Quelli un po' di seconda fila. Diciamo che c'è anche lì un distinguo. Cioè quelle cose, io ti dico, le cose che mi colpiscono nei film, c'è sempre questa scena. Arrivano gli incursori, quelli sempre che possono essere, che ne so, ex galeotti, ex marines, rambi, così. Silenziosamente c'è la sentinella cattiva col fucile che sta lì a aspettare, gli vanno dietro, tac, con un colpo gli spezzano il collo e cade per terra. Ecco, questo si insegna, esiste o è una cazzata? No, no, no, questo esiste, sono tecniche di combattimento alla mano, le chiamano, e vengono fatte. Cioè te l'hanno insegnato anche a te, ti hanno visto come si fa? Allora, a me, io avevo un'altra specializzazione, io ero un incursore e avevo una specializzazione su un altro tipo di armi, non sul corpo a corpo, ma sul corpo a corpo comunque si fa come addestramento, cioè la dislocazione delle ossa, l'uso dell'arma bianca ravvicinato, il disarmo, tutte queste cose naturalmente vengono fatte seriamente, cioè non sì, come sì. Nelle palestre per le signore che vogliono fare l'autodifesa, ecco. No, assolutamente no, poi dipende dal ruolo che a uno viene ritagliato. E l'incursore cosa faceva? Campi minati, cosa facevi? Allora, l'incursore innanzitutto era un paracadutista. Quindi io, già venendo da una specializzazione, mi hanno infilato lì. Beh, magari ti hanno fatto progredire anche nella tecnica, perché i para fanno i lanci vincolati, lì devi fare lanci proprio tattici, mi sembra, no? Sì, sì, lì è naturale il lancio tattico, il lancio notturno e il lancio dietro le linee, che poi, vabbè, è una terminologia un pochino obsoleta perché non si usa più adesso con le moderne tattiche di guerra. Cambiano gli schemi, certo, è chiaro. Cambiano assolutamente, ma all'epoca era ancora in voga. Beh, l'incursore doveva penetrare a fondo, cioè nel libretto mastro, l'incursore doveva penetrare a fondo nelle linee nemiche, sabotare ed aprire la strada per. E quindi tu saltavi con un bel fagotto d'esplosivo quando venivi giù col paracadute? Sì, sì, sì, beh, certo, o quello o il mortaio, io avevo quel compito lì. Tu pensa che io una cosa che mi ricordo nell'addestramento, che ti ripetevano tutti i santi giorni, la mattina, pomeriggio, la sera, cioè te lo facevano entrare in testa, dicevano sempre: non è l'arma che uccide ma è il cuore, non uccidi con l'arma ma uccidi con il cuore, ricordatelo sempre, se il cuore trema sbagli i bersagli. Ecco, quello è una cosa che ti ripetevano sempre. Quindi tu hai avuto contatti comunque anche con veterani, con gente che aveva combattuto, non erano soltanto persone che così. No, no, no, io quando sono andato al corpo, io poi sono andato in zona di combattimento, è naturale. Ma quindi hai avuto il battesimo del fuoco proprio? No, perché io non ho sparato, però ho avuto il contatto con la realtà, e lì infatti è finita. Si può dire in che territorio stavi? Sì. Beh, era naturalmente in Africa, in una ex colonia italiana. E ci sono stati scontri nel periodo che ci stavi te? Sì, assolutamente. Ecco, lì, ma lì come funzionava? Voi avevate una sorta di libertà di azione o di operazione, o c'erano dei limiti dal momento che eravate una legione straniera? Noi facevamo, ma come corpo rispetto alla MF? Sì. No, allora come corpo rispetto all'AMF noi eravamo sotto l'egida della Leyte Militar Force e quindi operavamo secondo i comandi generali. Però vi consideravano quelli della Legione Straniera, eravate un po' diversi dal soldato medio italiano di leva che veniva lì a fare l'operazione di pace, chiamata così, ecco, diciamola così. Perfetto. Detto ciò, sia noi che i legionari spagnoli avevamo... Il tercio, quello lì? Sì. Avevamo sia dei compiti che delle libertà un po' diverse e che delle regole di ingaggio diverse naturalmente. Cioè il lavoro più sporco lo potete fare benissimo, ecco, questo tanto per chiarirci, mentre gli altri... Sì, assolutamente. Tu tieni conto che ad esempio solo il montare quando si usciva di rastrellamento, il montare, cioè praticamente l'armamento che noi avevamo, secondo le regole di ingaggio doveva essere che nel caricatore il primo proiettile era salve, il secondo tracciante e il resto naturalmente a ogiva. Voi tutte pallottole devastanti dal primo colpo naturalmente. Sì, ecco, noi montavamo il caricatore naturalmente al contrario, ma lo sapevano tutti. Cioè prima sparavate, ammazzavate e poi facevate i fuochi artificiali. Praticamente. Ma quello era anche una... Vabbè, d'altronde, se no che legione eravate, fammi capire. Anche perché se tu vai da un colonnello legionario, perché sai che i gradi sono bassi, non arrivano a generale, se tu arrivi vai da un colonnello legionario a dire sì, guarda, prima spariamo a salve e poi tracciamo... Ti ride il fatto. Ti dà una coltellata senza neanche parlare, non ci sono storie. Kar kaprišva na ruko vas, začeli misli si, co čupadaš. Mili muzikanti, zakraj tvemi čardaš. 1. oktobra na ruko vas. Mili muzikanti, zakraj tvemi čardaš. 1. oktobra na ruko vas. Kanakarska kudlom koz lukača, cačin deo cerove u Mirejaka. Mireva butara baša venčardaši, kaj mangete kelav Miredaka. Mireva butara baša venčardaši, kaj mangete kelav Miredaka. Karka prišla na ruko vas, začeli misli si, so čupadaš. Mili muzikanti, zakrajte mi čardaš. 1. oktobra na ruko vas. Mili muzikanti, zakrajte mi čardaš. 1. oktobra na ruko vas. Kanakarska kudrom koz lugača, začin del terove u Mirejaka. Mireva butara baša venčardaši, kaj mangete kila Miretaka. Mireva butara baša venčardaši, kaj mangete kila Miretaka. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Comunque la parte carina che della mia storia è proprio la fine, che è piuttosto rocambolesca, secondo me è divertente. Vabbè, tu hai fatto questa esperienza, diciamo, sul campo, anche se non hai avuto proprio il combattimento corpo a corpo, sì. Comunque sei stato operativo a tutti gli effetti, ecco. Ti è andata bene, diciamo, rispetto al fatto che hai evitato di... Però hai avuto anche i tuoi rischi, immagino, perché anche quando vai in pattugliamento rischi se sei in una zona calda. Io sulla mia divisa avevo freggi da combattimento, avevo il cap, avevo tutto, quindi non... Ecco, a un certo punto questa cosa che sembrava l'apoteosi del tuo sogno, perché non ti è andata più bene? A questo punto, ecco... Mi sembra che rispetto a quello che ti aspettavi era questo: in mezzo ai combattenti, tu combattente, fai una vita dura, avventurosa, e che altro volevi di più? Diciamo che ho provato, mi sono misurato, mi sono trovato mancante. Non ho avuto la forza, il coraggio di andare avanti, ma non tanto, cioè non era la paura della morte, perché non ci pensi fondamentalmente. Su io, quello penso sei stato già condizionato nell'addestramento, che se c'è la paura della morte non vai a fare legionario, chiaro. Sì, quello sì. Più su, a un certo punto, durante una serata particolare, mentre eravamo fuori, mi sono ritrovato a pensare a un mio amico che si chiamava Massimo, ed era un sabato sera, che a quell'epoca, che in quel momento, in quell'esatto momento, sicuramente stava andando a ballare con i miei amici della compagnia e avrebbe trovato... Cioè ti è venuto all'incontrario il sogno del legionario, il sogno, la famosa canzone del legionario, dice ai suoi amici: voi siete rimasti lì nel vostro paesello, io combatto, sto sempre insieme alle puttane, rischio la vita, così disprezzava la famosa canzone del legionario, capito? E tu al contrario, tu da legionario rimpiangi i tuoi amichetti che il sabato sera vanno in discoteca con le ragazze del paese, assurdo. No, mi è venuto in mente quello, e lì mi sono pesato, ho detto: allora la mia convinzione non è abbastanza profonda. Quindi se c'ho nostalgia della birretta con gli amici, alla fine che ci sto a far qua? Ma c'hai ragione, sei stato onesto con te stesso, e quindi sì, a quel punto proprio che ti sei inventato, perché lì c'avevi le baionette puntate dietro le chiappe, non è che potevi pigliare e andartene. A quel punto è successo proprio una cosa, e quello è da film, secondo me, è l'unica cosa veramente da film quello che mi è successo. Che è successo? Un giorno, dopo due settimane che eravamo in zona operativa, abbiamo un contatto con una colonna italiana. Questa colonna italiana era formata da bersaglieri e paracadutisti. Ad un certo punto vedo a capo colonna, a capo macchina, un tenente, posso anche dire il nome, si chiamava Pavanello. Io lo guardo. Lo conoscevi? E dico, appunto, dico: questo qui, allora, praticamente questo ragazzo, questo tenente, era il mio tenente, anzi era il mio sottotenente, quando ero al quinto. Quindi hai ritrovato il tuo sottotenente quando eri recluta nei paracadutisti. Sì. Allora, ci siamo incolonnati con loro. Io facendo finta di niente, diciamo, perché vabbè, comunque si poteva avere contatti con i militari di altre forze, e mi sono avvicinato e ho detto: ma niente, questo mi guarda e mi dice: ma Fabiano, cioè, sì, ci siamo messi a parlare, e io gli ho spiegato, gli ho raccontato le cose, e ho cominciato a dirgli, faccio: guarda, io se posso scappare, se posso venire via. Cioè ti hai confessato esattamente quello che era il tuo sentimento? Sì. E lui ti ha capito, capito? Lui mi ha capito assolutamente. In zona di guerra, però era un problema andare via dalla legione, nel senso, se io avessi abbandonato armi e bagagli, e in caso di cattura eri disertore. Problema. Disertore. Bravo. E cosa ti fanno? Ti ammazzano, ti fucilano? Allora, teoricamente c'è la fucilazione. Teoricamente c'è la fucilazione. Cioè non è che ci si scherza. Ecco, non viene da tempo che non viene applicata. Sì, comunque ti fanno un culo, te lo ricordi tutta la vita, penso, no? Sì, sì. Quindi è meglio non rischiare, ecco. Sì, e non lasci la legione. Poi rimani lì, no, figurati, come uno vigliacco che ha provato a scappare, diventi lo zimbello di tutti. Trattato... Tu ti fai il tuo carcere legionario. Che non lo augura nessuno, certo. No, e poi vieni reintegrato nel corpo, naturalmente. Sì, ma pulire le latrine fino alla fine dei tuoi giorni. No, i reparti punitivi, quelli che vengono proprio mandati nelle zone calde, calde, brutte, e con ufficiali brutti. Cioè peggiori. Cioè ti mandano in prima linea con una scacciacani, cioè cose del genere. Se vogliamo dare questa immagine, sì. Ecco, allora io parlando con lui. Cioè meglio la fucilazione a quel punto, almeno un attimo ci pensi. Sì, sì, sicuramente meglio. Che poi non è come nei film la fucilazione, lo sai. No, com'è? La fucilazione non è che vieni messo attaccato a un muro con la benda, l'ultima sigaretta. No. La fucilazione è entri in una stanza, colpo in testa e via. Ah. Cioè, quella è la fucilazione, non è romantica. Entra uno, ti sparano in testa e via, fuori. Sì, non è petto al nemico, insomma. Ecco, ti ammazzano, no. Ti sparano e via. Ti sparano così. Ma questo l'hanno detto che accade? Sì, sì, sì. Questo e fino a quando l'hanno applicata, secondo te, questo? Guarda, io non lo so, io non ho notizie di... Beh, comunque, fa parte del regolamento militare. Regolamento, certo. Sì, sì, sì. Ecco, e con questo tenente, che tra l'altro già nel baraglio avevo un buon rapporto con lui, mi fa: guarda, facciamo così, vuoi scappare? Ti do una mano io. Ma che vi siete inventati? Allora, praticamente... È successo che quando siamo tornati ai nostri acquartieramenti, l'acquartieramento nostro era piuttosto vicino a loro. Di notte c'era da fare i servizi montanti per noi, no? Praticamente c'erano i turni di guardia, i perimetri da controllare. Erano i normali perimetri da controllare. Io ero insieme ad un altro italiano che si voleva squagliare, no? E abbiamo preso la jeep per andare a fare il giro degli acquartieramenti. Io gliel'avevo detto: cioè, guarda che ho incontrato questo ragazzo, papà. Lui non si fidava molto, anche se eravamo amici dentro, però aveva un po' di paura, perché ha detto: sì, questo qui era un tuo tenente, ti ha detto così e cos'ha, poi noi magari pigliamo, disertiamo, andiamo là, quello ci denuncia, certo. E siamo nella merda. E quindi? Faccio male. E quindi ho detto: rischiamola. Ho detto: andiamo là, vediamo cosa ci dice. Se la vediamo brutta, torniamo. Dici che avevate scherzato. Ci troviamo una scusa, ci troviamo qualcosa. Che eravate ubriachi. Sì, la situazione era: no, ubriachi meglio di no. Vabbè, quindi siete andati? Quindi siamo andati. Quando ci ha visto, poi fa: siete in due, sì, ci ha fatto nascondere la jeep. Siamo praticamente ci siamo imboscati lì nel quartiere italiano. La Jeep è stata portata via lontano, gli sono state bucate le gomme, sfasciata un po' per far sembrare come se avesse assalito un comando nemico, sì, come se la Jeep avesse avuto o un incidente o noi fossimo stati prelevati. E quindi però dovevi scomparire come caduto in guerra te, a quel punto, il più velocemente possibile. Poi vieni beccato, perché comunque allora per farla breve, siamo stati prelevati dagli italiani. Siccome per la legge italiana la diserzione dalla legione straniera non è un reato nella maniera più assoluta, come non è un reato prendere una Jeep in zona di guerra, siamo stati accompagnati. Sì, tu non hai fatto nessun reato, no, assolutamente. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Se adesso ti ritorni in Francia, che succede? No, io non posso. Sì, ma loro, fammi capire una cosa. Loro hanno capito che tu te ne sei scappato o pensano ancora che t'ha salito un comando nemico, t'ha mangiato, t'ha distrutto? No, loro, il governo italiano, dopo, quando noi... Il governo italiano, siamo... ok, ma gli altri, i legionari, i capi della legione, diranno dove è finito questo? Un attimo, al ritorno in patria la Farnesina deve comunicarlo che ha, deve comunicarlo ai francesi. Si è ripresa un cittadino italiano. Sì, che ha questi signori nominati così, con i nomi legionari così, che sono rientrati in patria. Poi il governo francese fa richiesta di estradizione e il governo italiano naturalmente non la concede, perché non sono stati commessi reati. No, loro sono... Cioè, tu ti sei salvato dall'arresto, solo che se per caso ricapiti nel raggio della legione ti possono arrestare. Assolutamente sì. Dormi preoccupatissimo, scusa, fammi capire. No, che non dormo preoccupato, che cazzo ci va più in Francia? Voglio più vedere. Ma metti caso che gli gira il comandante tipo Rambo, quando se ne va in pensione, dice basta, voglio riprendere tutti i disertori. In borghese ti viene a cercare, ti prende, ti narcotizza, ti lega, ti porta lì, ti sparano in testa in una stanza. No, assolutamente. E non c'hai paura, non so, tu non puoi andare manco in Costa Azzurra, manco niente. Quello sì. In Corsica non ci puoi andare. No, non ci posso andare né in Costa Azzurra né in Corsica e nemmeno nei protettorati francesi, guarda, ti dirò di più. Ma se tu entri in Francia sei segnalato alla frontiera, in qualche maniera? Allora, certo, sì. Allora, è costata questa cosa comunque. Perché, sì, mi è costata. Cioè, uno campa lo stesso anche senza andare in Francia, è chiaro, però diciamo che... Dovrebbero fare dei controlli proprio assurdi, incrociati. Ma non scade mai questa cosa, che ne so, in età di pensione finisce, basta, perdonare. No. E non puoi chiedere il perdono a distanza? No. No, no, anche perché la legione straniera è un corpo francese, ma è piuttosto a sé stante, non ha delle regole un... Quindi c'è questo conto aperto con la legione straniera, questo sì. Io questo conto aperto con la legione, no, conto aperto con la Francia, poi, perché la Francia. Ma se tu incontri il tuo ex comandante, il tuo ex colonnello, sì, ti squarta, scusa, che fa? Ma oramai sarà anche morto, all'epoca aveva 50 anni. Ma che i legionari che non campano 70-80 anni, figurati. Lui sì, mi sa, però. Hanno un buon tasso di diserzione, quindi. Vabbè, ti è andata bene alla fine. Devi ringraziare, gli mandi tutti gli anni il panettone con la bottiglia al tenente, perché ti ha salvato lui. Al mio tenente l'ho rivisto anche un anno fa, perché io sono nell'associazione naturalmente paracadutisti, quindi non però nell'associazione ex legionari. No. non esiste, però mi sono portato a casa tutto, cap. Gli hai fregato anche la divisa? Gli ho rubato tutto, anche gli stivali, tutto quanto. Qui c'è tutto l'armamento, c'è un manichino a casa tua vestito da legionario, cioè questo ero io in un'altra vita. No, è tutto ben piegato e ordinato nell'armadio. Senti, e rimpianti? Su te hai fatto una cazzata, tutto sommato è valsa la pena? No, non è valsa la pena. Il mio unico rimpianto è di non... Cioè, non è un rimpianto, è più un rimorso. Di non... aver concluso. Di aver capito di non essere... un soldato vero. Sì, però posso dirti una cosa? Sì. Rispetto a chi c'ha il rimpianto e pensava cosa potesse, tu almeno hai avuto il coraggio di fare la prova. Scusa, uno può tutta la vita pensare, se avessi fatto un'altra vita ero un eroe. Tu hai visto che non ero proprio tagliato per fare l'eroe, però ci hai provato. La parte di addestramento l'hai fatta, il combattimento l'hai fatto. Quanti anni dovevi fare ancora? 3 anni e 8 mesi. Vabbè, dai, altri 4 anni te li sei risparmiati. Te li sei risparmiati. 3 anni e 8 mesi non sono. Ma quello che dovevi provare hai provato. Che altro dovevi fare, capito? Ma guarda, che poi ti dico, la cosa più dura sicuramente è il corso, è l'addestramento. Poi sai, per come è cambiato però lo scenario internazionale rispetto a quel periodo, diciamo che di bombe da schivare ce n'erano nei 4 anni che seguivano, quindi tutto sommato non ti è andata male. Dai, questa volta ti è andata bene. La prossima poi mi racconti che fai adesso. Buon viaggio, ciao. Ciao. Grazie, ciao. A mia moglie non è mia, è da cabeça dela. Mesmo achando che sim, non precisa de mim. Isso é o que me agrada nela. Não deseja ser o meu mundo, mas tem-me em seus desejos. Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras. Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos, simpáticos por campos de razões. E quando volta traz-me caramelos. Ela não se põe à janela de corpo iluminado, mas mostra o universo aos animais de caça quando desce ao mercado. Desce nos cabelos das estrelas, bem nas barbas dos fantasmas que aprendeu a desmontar e acaba a transformá-los em brinquedos. A minha